Incontri di Gianfranco Fabi. Con la musica dei Pirati dei Caraibi iniziamo il nostro incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Paolo Vitelli. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, prima di presentarvi Paolo Vitelli, gli chiediamo allora perché i Pirati dei Caraibi? Questa musica certamente irruente, certamente un po' aggressiva, che ricorda il mare essenzialmente. Bravo, quell'aspetto del mare che fa parte della mia storia e l'aspetto di essere positivi, perché in questo momento dobbiamo essere positivi e questa musica dà una carica, io ho sentito una carica, parte dal mare, ma dà un senso di positività per il futuro. Ecco, un senso di positività, un senso di battaglia. Paolo Vitelli è presidente di Azimut Benetti Group, che è il più grande network di produzione di mega yacht, il più grande gruppo privato del mondo che produce questi yacht e che vende soprattutto all'estero, per il 98% all'estero. Ma non è solo presidente, è stato anche fondatore. Com'è nata Azimut Benetti? Dunque, è nata nel 69, io ero un studente universitario, avevo la passione del mare, avevo noleggiato con altri lavori che ho fatto, col ricavo di altri lavori che ho fatto occasionalmente da studente, ho noleggiato una barca a vela, due barche a vela, tre barche a vela. A un certo punto gli amici mi chiedono come si fa a noleggiare barca a vela e io, dopo aver dato il consiglio gratis tre o quattro volte, ho detto fondiamo un'azienda per noleggiare le barche. Poi siamo passati dalla compravendita e poi nell'importazione e poi alla fine alla costruzione nel 74. E oggi siamo i più grandi costruttori del mondo di barche a motore e abbiamo l'orgoglio di portare in giro per il mondo il Made in Italy. Ecco, barche a motore, barchette a motore, quella che costa meno quanto? E oggi bisogna salire un po' di valore perché il mercato di massa non c'è più tanto. Comunque quella che costa meno costa 170.000 euro. E quella che costa di più costa 150 milioni di euro. Milioni di euro. E c'è un mercato sia per l'una sia per l'altra, soprattutto all'estero. Quali sono i mercati principali? No, per la verità oggi c'è più mercato sulle grosse che sulle piccole, ahimè, perché c'è questa grande massa di denaro in giro per il mondo che ha bisogno di dimostrare il successo delle persone che l'ha creata. E i mercati sono quelli dove questa massa di denaro si è creata in maggior misura ed è più spendibile, perché oggi c'è un problema anche di socially correct, cioè non tutto il mondo la massa di denaro è spendibile, specie in Europa. Allora, il nostro primo mercato in questo momento è gli Stati Uniti d'America, dove la crescita si fa sentire e dove i ricchi possono far vedere il loro successo. Un altro grande mercato è l'Inghilterra, dove l'economia va bene, il PIL cresce e nuovamente abbiamo dei ricchi orgogliosi di essere ricchi che vogliono far vedere il loro successo, ma che soprattutto hanno anche una storica tradizione nel mare. E poi c'erano i russi fino a due mesi fa. Ah, sì? Adesso il terrore delle ritorsioni europee, sì, e americane li hanno bloccati di colpo. Sono 60 giorni che hanno interrotto le trattative. Speriamo che ricomincino ben presto. Poi ci sono i medio orientali, da 30 anni sono un punto di forza il Medio Oriente, cioè i paesi del Golfo, cioè, del nostro lo mercato. Lo sceicco non può non avere uno yacht. Lo sceicco deve avere uno yacht, per fortuna. E poi ci sono i mercati emergenti del sud-est asiatico, dove più Hong Kong e Singapore, più i mercati maturi, ma anche la Cina comincia un po' a comprare. E dove sono i principali concorrenti della vostra attività? Chi sono non tanto gli armatori quanto i costruttori di yacht americani, finlandesi? Concorrenti? Concorrenti non ce ne sono. Non ce ne sono, ma li avete fatti fuori tutti. No, il mercato li ha fatti fuori quasi tutti. L'Italia rimane uno dei paesi più forti nella produzione di nautica, ma ahimè i volumi si sono ridotti, il mercato interno è sparito e molti concorrenti sono ridotti moltissimo, a un quarto del loro peso iniziale. E rimane l'Inghilterra, che è uno dei principali produttori, e la Francia, questi sono i concorrenti principali. Gli Stati Uniti è diventato più un paese acquirente che non produttore, mentre la Cina, di nuovo ahimè, comincia a produrre brutte barche, cattive marche, ma comincia a produrre. Speriamo che ci mettano 20 anni a imparare a farle belle. Beh, è un mercato comunque che cresce, non può che crescere anche sotto questo settore. L'importante è appunto essere sempre un gradino più sopra, essere un passo più avanti anche sotto il profilo dell'estetica. Qual è la qualità italiana sotto questo profilo? Si mette in mostra sotto tanti aspetti, tecnica, costruttiva. Ecco, qui innovazione c'è anche in questo settore. Direi che la qualità italiana è fatta di 3 pilastri. Uno è la moda che c'è adesso, il gradimento che c'è in questo momento nel mondo dell'Italian style. In tutto il mondo c'è un'esplosione dell'Italian style che compensa un po' i musi lunghi che abbiamo in questo paese, di cui tanto contenti di questo Italian style non siamo. Però insomma, il nostro cibo, le nostre terre, il nostro vino, i nostri monumenti, la nostra storia ci rendono molto graditi all'estero, quindi venire a comprare una barca in Italia è comunque un elemento distintivo positivo. Poi c'è la linea estetica, perché comunque siamo bravi a disegnare le barche e sono tutte opere d'arte. Forse nell'automobile abbiamo un po' perso talde qualche eccezione. Nelle barche no, nelle barche sono ancora le più belle del mondo. E poi c'è il fatto che alcune aziende, quelle che sono sopravvissute, hanno imparato nel recente passato a mettere della tecnologia, dell'innovazione, e lì bisogna mettere innovazione, tecnologia e servizio, e lì stiamo imparando. Ecco, quindi quando uniamo le 3 caratteristiche siamo vincenti. Ecco, ma in questo fate tutto da soli o avete rapporto con altre imprese o con l'università sul fronte della ricerca, con poli di innovazione sul fronte della ricerca tecnologica e così via? Intanto siamo una delle poche aziende al mondo avere, forse l'unica al mondo, di avere un ufficio ricerca e sviluppo che pensa solo all'innovazione, che recentemente ha anche vinto un bando dopo 6 anni con il Ministero dello Sviluppo Economico, e vi siamo anche un filo aiutati dopo tanti tanti anni nella ricerca e nell'innovazione dai fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Dopodiché abbiamo dei link, dei profonde collaborazioni con tanto le università che con centri tecnologici esteri. Però oggi l'80% della nostra ricerca la facciamo in Italia. Il 20% andiamo a cercare le nicchie di qualità tecnologica che si presentano in America o in Scandinavia o in Inghilterra quando ci sono. Ecco, lei è stato per qualche anno, negli anni passati, presidente dell'UCINA, che è l'Unione dei Costruttori delle Industrie Nautiche. Quale bilancio può trarre da questa esperienza di presidente? E poi passiamo anche a un'altra esperienza più recente, che è quella dell'ambito politico. Io sono molto orgoglioso del percorso che ho fatto in UCINA. È durato 8 anni, sono arrivato alla fine degli anni 90 e sono uscito nel 2007 con una trasformazione della percezione della nautica da parte dei governanti e un aumento di 10 volte il fatturato. Cioè, di colpo, fare barche non era più una cosa per lusso, ma era un'industria della tecnologia, dell'innovazione, del made in Italy, che piaceva all'Italia ma piaceva anche all'estero. Cambiando sta percezione, non eravamo più dei castigati da parte del governo, ma eravamo degli innovatori, quindi degli ambasciatori del Made in Italy. E l'industria italiana è esplosa, è arrivata a 6 miliardi, eravamo il terzo o quarto esportatore italiano. Poi è arrivata la crisi ed è arrivata la persecuzione, nuovamente la persecuzione dei governanti. E i miei successori non hanno potuto o saputo reagire a questa caccia alle streghe, per cui crisi più criminalizzazione, la chiamerei, dei proprietari di barche, hanno creato dal 2008 al 2014 una riduzione colossale del nostro mercato. Pensi che oggi siamo a un mercato interno che è il 5% di quello che era. 5% è un insieme della produzione italiana verso l'estero che sono il 30% di quello che erano, quindi si sono ridotte del 70%. Si può dire che l'Italia è riuscita a farsi male da sola in questo profilo? Assolutamente, perché gli effetti della crisi economica hanno giocato, ma molto peggio è stato il peso della caccia alle streghe, l'individuazione che qualunque proprietario di barca fosse un evasore fiscale. Ora non escludo che ce ne sia 1 su 10, ma ce ne sarà anche 1 su 10 possessori di ville. Sui possessori di ville non c'è nessuna caccia alle streghe, sui possessori di barca è stata una vera persecuzione. Ecco, sotto tanti aspetti, non solo sotto il profilo fiscale, appunto anche sotto l'aspetto degli accertamenti, anche sotto l'aspetto delle penalizzazioni anche per le nuove realizzazioni di porti che hanno trovato sempre più difficoltà ad essere realizzate. realizzati in Italia. Ma forse di questo parleremo nella seconda parte, e anche per questo, se lei me lo conferma, forse anche questa sensazione del fatto che l'Italia si faceva una politica controproducente l'ha portata a scegliere di entrare in politica, è stato così? È stato il sogno di una vita di mettere a disposizione del pubblico quello che ho imparato a fare come privato. Sono riuscito ad avere un'azienda di successo, cerchiamo di portare un po' di questa capacità in aiuto al pubblico. Incontri. Ancora con la musica dei Pirati dei Caraibi riprendiamo il nostro incontro con Paolo Vitelli, presidente di Azimo Benetti Group, il più grande network di produzione di mega yacht. Ci ha spiegato nella prima parte del programma la nascita, lui stesso è fondatore di questa società, nata da una piccola società che noleggiava imbarcazioni, poi si è messo in proprio, come si dice, a costruire questi yacht, e nel corso degli anni, dagli anni 70 in poi, è cresciuta fino a diventare un leader mondiale. Ora una produzione di 600 milioni di euro, mi sembra, dottor Vitelli. Corretto. Con oltre 2000 dipendenti, non tutti in Italia. A 2000 in Italia, poi ne abbiamo 500 in Brasile, perché il Brasile è un mercato chiuso, dobbiamo produrre localmente. E quindi anche una produzione in Brasile. E nell'ultima parte, della prima parte del nostro programma, il dottor Vitelli ci spiegava che dopo questa lunga esperienza imprenditoriale, che è sfociata anche per alcuni anni come presidente dell'associazione di settore, Lucina, dell'associazione dei costruttori di imbarcazioni, è poi scelto nel 2013 anche di dire di sì a chi gli ha offerto di entrare in politica, e quindi da poco più di un anno è anche deputato. Qual è la prima impressione? Qual è stata, ci ripeta un po' quali sono stati i motivi che l'hanno portata a fare il deputato, e qual è il primo bilancio di quest'anno tra Roma e invece le altre sedi dove era abituato a vivere? Ma mi ha portato l'entusiasmo di dare un contributo al mio paese. Ero stufo sabato sera a trovarmi con gli amici e discutere dei problemi dicendo governo ladro, 20 anni che dicevamo la stessa cosa. Allora mi sono detto, se devo cambiare qualcosa ci devo provare in prima persona, adesso che ho acquisito tutte le esperienze imprenditoriali, manageriali, e la visione di cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sono entrato con molto entusiasmo e ho trovato un altro mondo. La politica è chiusa in se stessa, è un mestiere orientato alla sua conservazione. Cioè la gente lavora per conservare il posto, per avere una poltrona, perché vuole quello stipendio per il resto della vita. Nessuno si considera un cincinnato, nessuno si considera pronto di andare per un quinquennio o al massimo 10 anni, come dovrebbe essere fare il politico, pronto a tornare indietro dopo che ha dato la sua esperienza. Tutti quelli che entrano in politica vogliono fare una carriera politica, vogliono quello stipendio per il resto della vita. Questo fa sì che sia una classe chiusa in se stessa, con le sue regole, poco aperta al contributo che può dare a una rottura come quella che noi, che provenevamo dalla società civile, volevamo dare. Ecco, lei è appunto entrato con Scelta Civica, insieme al professor Monti, insieme a Bombassei, un altro grande imprenditore, ed è stato responsabile, ed è responsabile per le attività produttive e lo sviluppo. In questa prospettiva c'era molto da fare, e ha trovato degli ostacoli. Che ostacoli ha trovato? C'è tutto da fare, perché l'Italia più di tutto ha bisogno di sviluppo. Per fare lo sviluppo ha bisogno di tornare competitiva. Per essere competitiva ha bisogno di essere produttiva. Questo è il vero problema dell'Italia. Siamo caduti nelle ultime posizioni nella scala dei paesi con produttività. E cosa bisogna fare a fare produttività? Le regole sono 4 in sostanza. Una è stata fatta da Monti, dolorosissima, la riforma delle pensioni. Le altre 3 vanno ancora fatte. È la riforma del lavoro, la riforma della giustizia e la riforma della burocrazia. Sono cose semplicissime da dire, complicatissime da fare, ma bisogna una dopo l'altra farle. Se noi mettiamo a posto queste 4 riforme, vediamo che lo spirito italiano torna a essere con quella creatività di sempre e torna a diventare di nuovo di successo nel mondo. Ecco, ma riforme come quella della burocrazia, lei giustamente dice semplicissime da dire, ma poi quando ci si avvicina a fare la riforma ci si accorge che le semplificazioni si traducono in ulteriori complicazioni, perché si aggiungono leggi a leggi, invece di disboscare si aggiungono regolamenti. È forse la stessa logica della politica, la stessa logica di lavoro del Parlamento che porta a questa complessità? Attenzione che oggi quello che facciamo sulla burocrazia sono tagli lineari. Allora, se lei lavora sempre nello stesso modo, se il Ministero lavora sempre nello stesso modo e viene ridotto i fondi a disposizione, va in tilt. È solo la riorganizzazione che permette di lavorare in modo diverso, più efficacemente, a costi ridotti. La riorganizzazione significa dire alle persone qual è il suo ruolo, che cosa deve fare, misurarlo su quello che gli obiettivi gli sono dato e premiarlo se le realizza, cioè puntare alla meritocrazia. Quattro passaggi che l'industria privata conosce, almeno quella buona, e che nella pubblica amministrazione non si sono ancora adottati. Quindi molto attenzione a non andare troppo pesanti sul taglio lineare, se no si ferma tutto. Grande stimolo a Renzi, che oggi forse ha le chiavi in mano di una riforma, di andare sulla riorganizzazione e una diversa mentalità della pubblica amministrazione. Ecco, si tratta di fare non tanto le cose vecchie con metodi nuovi, quanto di togliere le cose vecchie da fare, non tanto di produrre un certificato invece che in mezz'ora, in 10 secondi, come possono fare le nuove tecnologie, ma abolire la necessità. Abolire il certificato e poi dare un messaggio di nuova responsabilizzazione alle persone. Se questa persona ci metteva 3 mesi a rispondere su un certificato, deve metterci 3 giorni, se è tecnicamente possibile. Quindi, e premiarlo se lo fa, ecco, perché se poi lo fa, bisogna, avremo delle risorse a disposizione, diamole in primis a chi ha dato un contributo positivo a questo efficienziamento. Sì, ma l'Italia è un po' il paese delle proroghe, dei rinvii, delle deroghe. In questo senso, fatta la legge, trovato l'inganno, è sempre una regola, sempre valida. In questa prospettiva, cosa può fare un governo per semplificare? Deve certamente riorganizzare, ma non è facile riorganizzare una burocrazia che alcuni definiscono ancora borbonica. Ma direi che Renzi non è partito male, deve indirizzare la sua ottica alla riorganizzazione, cioè deve prendere dei manager. Cottarelli ha l'incarico di fare dei tagli, benissimo. Adesso ci vuole un altro Cottarelli capace di fare la riorganizzazione. Quindi la riorganizzazione significa quello che dicevo prima, spiegare bene alle persone cosa devono fare, farla diventare un'amministrazione efficiente, servire e rispondere alle esigenze dei cittadini. Quando io arrivo in Cina, alla frontiera, devo schiacciare un pulsante se il doganiere ha dato una prestazione buona o cattiva nell'esaminare il mio passaporto. Qui il cittadino non può mai dire se è stato soddisfatto o no della prestazione. Lo fa un paese comunista, non lo facciamo noi? Questa è la vera riforma culturale che dovremmo portare avanti. Qual è la differenza maggiore che ha trovato nella gestione di un'azienda e la gestione di una realtà come quella politica, in cui si impongono appunto la necessità di scelte anche rapide e anche costose? In politica non si parla mai di contenuti, ma solo dei modi. Non ho mai sentito una serata che va avanti fino a tardi, come andiamo spesso nel discutere, concentrato che cosa bisogna fare per l'Italia. C'è sempre la discussione su come dobbiamo fare, con quali alleanze, con quali poltrone, con quali centri di potere, ma mai sui contenuti. In azienda si va prima sui contenuti e poi, una volta individuato l'obiettivo, si cercano le forme, le persone, gli strumenti, l'organizzazione per arrivare a quegli obiettivi. Qui gli obiettivi sono del tutto secondari. Prevale questa voglia di comandare e di continuare il proprio potere in politica. In politica è soprattutto essere visti, essere in televisione, la politica mediatica. Ecco, se lei avesse la possibilità di schiacciare il tasto giusto nella famosa stanza dei bottoni, la priorità delle priorità, qual è la riforma che lei farebbe, il provvedimento che lei attuerebbe per cercare di dare un po' di fiato, un po' di ossigeno a questo paese? Intanto proibirei ai politici di parlare per più di 2 minuti, perché nelle riunioni questi discorsi lunghissimi di cui non si capisce il contenuto, per me imprenditore, sono un dramma. Beh, scherzi a parte, direi che quello che bisognerebbe fare è essere molto concentrati sugli obiettivi. Bisogna sapere qual è il programma. I partiti, noi andiamo alle votazioni senza sapere con precisione in 5 punti quali sono i programmi dei partiti. Gli elettori dovrebbero poter scegliere sapendo qual è la scelta, il programma che fa ogni partito. Invece i partiti tendono a barcamenarsi, non esporsi troppo, perché il programma potrebbe, certo, far perdere voti in quanto è troppo doloroso. Più lo slogan che non il contenuto, esatto, più la frase a effetto che non la ricerca concreta della soluzione. Bisognerebbe anche cambiare la testa agli ascoltatori, perché gli ascoltatori rimangono affascinati del modo di comunicare e non dei contenuti della comunicazione, e non ben pochi sanno leggere i contenuti, ma la fase effetto, come lei giustamente richiamava, prevale nella percezione dell'ascoltatore. Ecco, avviandoci alla conclusione, tornerei però alla sua attività imprenditoriale, l'attività di imprenditore, che comunque è sempre quello che la caratterizza, dottor Paolo Vitelli. In questa prospettiva, quali possono essere i passi futuri? Tra l'altro, lei forse con un po' di senso di colpa per amare troppo il mare ha fatto anche degli investimenti in montagna. Beh, questo è un hobby, perché penso che un imprenditore bravo deve saper pensare al futuro. Ho visto molti colleghi imprenditori che non investono abbastanza in azienda, e io sono vivo attraverso la crisi perché ho lasciato i soldi in azienda invece che tirarli fuori, come hanno fatto molti imprenditori italiani. Invece il problema di oggi è dare continuità all'azienda e avere altri interessi, alberghi e porti, mi permette di guardare all'azienda con un po' di distacco. Ho un bravo management, ho una brava figlia, loro sono il futuro dell'azienda, io devo imparare a delegare, e per delegare appunto adesso la politica, e un giorno mi occuperò degli alberghi. Ah, degli quindi alberghi in montagna e non al mare, come mai questa scelta? Beh, io sono amante della natura, credo che faccio un mestiere bellissimo perché a contatto della natura, tanto al mare che in montagna. Essendo calato nel mare con l'attività principale, sabato e domenica, come contraltare, come completamento di questo amore della natura, mi è piaciuto fare degli alberghi di charme, cioè ho preso le costruzioni del 500 e del 600 in villaggi abbandonati e li ho trasformati in alberghi diffusi. Questo è un hobby meraviglioso che mi permette... Possiamo dirlo a Champoluc, mi pare. Sì, ne ho tre, di cui due a Champoluc in Val d'Aosta e uno a Chamonix. Sono tutti alberghi storici o villaggi storici convertiti in alberghi diffusi. Che lo fa un po' per divertimento, però su questo fronte, ritornando alla realtà italiana, il turismo può essere uno dei punti di forza su cui l'Italia può veramente cercare di riprendersi. È la prima industria dove dovremmo confrontarci bene. È stata nel passato il nostro punto di forza. Oggi stiamo facendo bagnare il naso da tantissimi paesi europei. La riorganizzazione del turismo, che significa una promozione corretta, una rete alberghiera corretta, una linea di aviazione che permette di portare dalla Cina e dai mercati emergenti in generale i clienti nel nostro paese, sarebbero essenziali. Di tutto questo manca una politica, purtroppo manca la politica industriale, ma manca anche la politica del turismo. Dovremmo metterci lì e dire come si fa a portare turisti in Italia e risolvere quali sono i punti chiave per portare milioni o decine di milioni di turisti d'Italia, che sarebbe il modo di fare business. Un'ultima battuta, Expo 2015, lo vede bene? Lo vedo bene, lo vedo una sfida delicata dove giocano due elementi: da un lato la piacevolezza che offre l'Italia, l'Italian way of life, come dicevo in apertura, dal lato la delicatezza che abbiamo in questo momento nel confrontarci con i mercati mondiali. È un'occasione affinché il primo prevalga sul secondo e faccia diventare il secondo, cioè la nostra capacità di produrre e di vendere, un successo. Grazie, grazie Paolo Vitelli, grazie anche per l'ottimismo e per la forza di volontà. Il tempo è volato come il vento sul mare. Abbiamo parlato appunto della sua esperienza di imprenditore, presidente di Azimut Benetti, il più grande gruppo italiano e mondiale nel settore degli mega yacht, ma anche della sua esperienza politica e imprenditoriale. Grazie al dottor Paolo Vitelli di essere stato con noi questa sera. Grazie a Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it.